avventurieri. Il mago oscuro delle terre di Kaelor è di fronte a voi con le mani che pulsano di energia arcana. Non potete più fuggire. Preparatevi allo scontro.